mi è successo a me la settimana scorsa, ma sono 3 giorni fa, 4 giorni fa. Ma avevo il mio seduto vicino a me, lo stava carezzando e mia cognata si è abbassata per guardarlo in faccia, lui ha cambiato direttore, cioè completamente posizione di relax che aveva, si è messo sugli attenti e lui ha allontanato immediatamente, anche per loro è una cosa di sfida, capito? Lui andava in difesa a me, anche se la conosce sì, ma non è che la frequenta ogni giorno, hai capito? Puoi mai guardare il cane negli occhi? Se tu guardi il cane negli occhi lo stai sfidando, e quello è. E poi, cioè, se non lo conosci bene il cane, come fa a mandarlo a cavolo a portarli da mangiare così e non esserci un casino? Io sto molto attento col mio. Guarda, è successo che a casa sono venuti i miei figli e cose, lo accarezzano, ci giocano, si è rotto le scatole un giorno, va! E l'ha minacciato, non è che l'ha morsicato, ma l'ha minacciato, capito? Quindi il cane è così, come non lo fa, come gioca, fa, lo accarezza, lo faccio, non fa niente, ma secondo con chi gli capita, se si rompe le scatole si gira. Sì, è vero, bisogna dargli un po' di lei, anche soprattutto se non li conosci. Io non mi azzardo mai a toccare un cane se non lo conosco, se no chiedo al padre, posso toccarlo, è bravo, sì, non tranquillo, mi faccio dorare la mano prima, cosa. E c'è stato un cane, gli ho fatto dorare la mano, come se te lo dore del mio cane, subito mi ha abbaiato, cazzo, di solito quando c'è te lo dore del cane ti scodinzola, non ti fanno, questo mi ha abbaiato, cos'era, di quelli bianchi, tipo barboncini, sono, come si chiamano, adesso non mi viene, un maltese. Ho capito, il mio non dà confidenza agli altri cani, però lui vorrebbe giocare ancora, capito? Non è maligno, non è cattivo, solo che gli altri cani magari lo vedono un po' così, si impauriscono. Adesso sono andato alla Patamona a fare una passeggiata, c'era questo cane libero, ma un cane di massa piccola taglia, una cosa là, stava avventurando avvicinarsi troppo, io non c'era nessuno, con un po' di sabbia gliel'ho buttata un po' quasi vicino a lui per allontanarlo, no? Cazzo, se mi ha ringhiato, si è messo attenti, quello là, e sta provvisinati, succede un casino che. Okay. Allora, se è quello marroncino che è bassottino, una volta si è portato a Tyson e lo stava sempre abbaiando, e ho aperto il cofano per farlo salire in macchina perché me ne stavo andando, e questo qui è andato per morsicarlo, e allora alla fine gli ho tolto la museruola a Tyson, ha avuto due morsi, ha fatto cacca e se ne è andato. Sì, vabbè, io è quello che c'è lì alla rotonda, poi non so se è sempre lì o meno. Ehi, lo sai che quello lì è un cane che sta, hai visto dove ci sono quell'istituto di anziani lì, dove parcheggi le macchine prima della rotonda, lì c'è un istituto di anziani, sta lì dentro, gli danno da mangiare e tutto, poi va e circola lì alla rotonda, prima stava con quella donna, quella che abitava, che era rifugiata lì sotto quell'albero, che poi è morta. E praticamente li teneva lì, gli dava da mangiare lì, capito? Ah sì, ho capito qual è, quello che c'era lì al delfino, al primo pettine. No, alla rotonda, visto quell'albero che c'è alla rotonda, sì. Quell'albero che c'è che è concavo, poi stava lì sotto questa donna, era quella che era stata in galera, che avevano implicato in un sequestro di persone, eccetera, eccetera. Quella lì stava lì alla rotonda, si aveva fatto la capanna sotto quell'albero lì e poi l'aveva fatta sulla panchina, dormiva, eccetera, c'erano sempre questi cani e chiedeva sempre i soldi a tutti, il caffè, se li invitava il caffè. E Marco Condo li portava da mangiare, li avevano appena, li portavano da mangiare con la madre. Ho capito, io vabbè, no, scusa, ce n'era anche un'altra, era lì al Delfino, aveva una casetta, poi non so se è la stessa o meno, comunque anche lì avevo un sacco di cani, poi quando hanno fatto quel lavoro di smantellamento se ne fatta pure. No, questa qua era sempre la rotonda, poi c'erano quegli angel, quelli lì avevano fatto sopra la panchina una specie di tettoia per ripararsi, e invece di Mandazzira l'hanno fatta restare lì, l'hanno fatto una specie di tettoia per ripararsi dalla pioggia, eccetera, capito? Ma se c'ho freddo io la notte, figurati uno che vive così come sta, specialmente a Occiamare che aveva un'umidità che non veniva a dirlo, poi forse è musso. È vero, però d'altronde quando uno decide così l'umidità se la fa scivolare, dove farci? Purtroppo c'è tanta gente, io conosco anche un personaggio che aiuto non le voleva, voleva vivere così e basta. No, anche questa qua, le hanno praticamente detto se voleva andare in un istituto, la volevano mettere in un istituto dal comune, lui ha detto che la galera l'aveva già fatta, che non ne voleva orari, che voleva fare quello che voleva, non doveva uscire, entrare, uscire a orari, eccetera, eccetera, che la galera l'aveva già fatta, così gli ha risposto. Ho capito. ormai. Sì, ormai già sta meglio di noi, che dobbiamo combattere sempre tutti giusti. Ehi, avanti. No, scusate, no, mi ero ricordato una cosa, stavo passando qua. Ho letto già una volta, prima di quella cosa dei City Angels, no, sulla panchina, era anche in spiaggia, proprio attaccato al muretto della rotonda, aveva una tenda e non so chi gliel'aveva tutta distrutta. Allora, siccome aveva una tenda a tre posti, tipo igloo, che non usavo, gliela volevo portare. E sembrava interessata, però poi praticamente quei ragazzi le avevano fatto quella copertura, l'avevano aiutato a fare quella specie di capanna. Mi adesso sei uscito perché abbiamo fatto la tua fidanzata. Vabbè, ma voglio dire, anziché starsene lì in strada, era meglio metterla, voglio dire, in spiaggia, che è più riservata, diciamo, no? Andava in pinetta. Oh, in pinetta, che è più riparata ancora. Sì, ma per esempio una casa popolare non la potevano dare, la danno i Rom, che non sono nemmeno italiani, non hanno cittadinanza, e gli danno tutto. È strana l'Italia, è diventata strana. Stacco e continuo a fare quello. Riprendi Tino. Purtroppo così. A volte chi la vuole, cioè chi la vorrebbe una casa non gliela danno, e poi invece succede che a cani e porci gli viene regalata. Vado a fare la seconda. Avete parlato in due, è passato Gianni. No, volevo dire che lei non voleva andare in un istituto, però se le avessero affidato una casa popolare, cioè dato un alloggio suo dove ci abitava solo lei, avrebbe accettato. Così mi aveva detto lei. Ah, boh, questo non lo so. Sì, magari così sì. Visto il personaggio, non l'hanno aiutata per quello forse. Vabbè, ma io non entro nel merito, però quello che potevamo fare in piccolo, intanto le portavamo beni di, come hai detto prima, beni di conforto, dai, qualcosa da mangiare, cosette così, quello che potevamo fare, non è che. Scusate che me ne devo allontanare dalla radio, arrivo subito. Marco, sono delle opere buone anche quelle. Sempre un cristiano, cosa devi fare? Purtroppo c'è gente che non ha la fortuna nella vita, vabbè, se le cerca anche, perché hanno fatto cose che non doveva fare, ma... Vabbè, quello sì, però cioè, ha scontato la pena, in realtà ha pagato già. E una volta sai cosa mi aveva chiesto? In occasione di una festa, presumo natalizia o roba del genere, mi aveva chiesto dei festoni per addobbare, ci pensi, no? Per festeggiare penso il Natale, la cristianità, dei festoni tipo quelli dell'albero di Natale, o dorati o argentati per addobbare, te le immagini? Per addobbarsi la casetta su? Presumo, sì, sì. per dare un tocco di festa, dai, come dire. So io, sono chi ci rimancava, ma dove si lavava questa cristiana? Allora, in estate c'erano le docce lì, c'erano anche i gabinetti, però alla fine dell'estate i gabinetti perlomeno li portavano via, quei WC chimici. Le docce non so se siano sempre attive anche d'inverno, sai che non me lo sono mai chiesto già, delle docce. In estate vabbè funzionavano, non lo so perché le usate, però in inverno non so se chiudessero l'acqua, no, più che altro se per cosa già, per evitare che qualcuno di notte tardi andasse con qualche pompa a riempirsi i serbatoi, che ne so io. No, già le lasciavano, però ti voglio vedere lavandoti d'inverno con l'acqua ghiacciata, cazzo, buh. Non penso che sia molto per l'acquale. No, ma sai in che senso già? Magari lì bastava che avesse una pentola, qualcosa per scaldare un po' di acqua in un fornelletto, no? Poi, cioè, non è necessario fare una doccia completa, basta che hai dei fazzoletti, che ne so, le bagni d'acqua, ti detergi, no? Capisci a me, dai, come se fossero delle salviette, ecco. Cappa, va bene, io devo staccare già, che non ho terminato ancora. Vabbè, Tino già rientrerà. Vabbè, non è entrato nessun altro, mamma, sono tutti in coma etilico ancora. Tu stai parlando di un lavaggio sporco. ma già, e tu immagina, adesso io penso anche a quello, metti che davvero scoppi la guerra, tutto, non trovi più elettricità, acqua, cioè uno per lavarsi cosa deve fare? Deve usare salviette, usare metodi alternativi, capito? È un casino, è un casino. Se solo ci penso ed essere una cosa terrificante, arrivare a una condizione del genere, dove non c'è più servizi, non c'è più ospedali, niente, non c'è più medicine, nulla. Siamo morti, saremo morti. Io, vabbè, anche all'ospedale mi detergevo la faccia con le salviettine umidificate, però poi venivano e mi lavavano anche, perché non mi potevo muovere, quando mi hanno operato non mi potevo muovere, mi lavavano gli infermieri. Ah, vabbè, sì, quello sì, no, ma io parlavo di terza guerra mondiale, guerra nucleare, cioè, se succede quello siamo tutti morti, ma non morti subito, anzi, ti dirò, chi è fortunato muore subito, ma chi rimane praticamente patirà l'infarto in terra, quel poco che rimane. Sì, state già pensando alla morte. Viviamo brutti tempi, con questa, tra Putin, tra quell'altra scimmia cinese e gli americani che d'altronde non vogliono far vedere di avere i muscoli sempre, non abbassano mica la guardia, no, figurati, Putin lo stesso non vuol far vedere che è debole, e quindi così si arriva alle guerre come ci sono già state. Ok, riprendete pure che stacco e finisco di stendere qua, ciao, a dopo. Ciao Marco, avanti. Va bene Marco, ciao. Ti volevo chiedere se avevi notato qualche cambiamento nella mia radio, visto che eri un po' senza ascoltarmi, dai. Io, Tino? Sì, va. Aspetta che tolgo il noise blanker e cos'altro mettere qua? Vabbè, questo è un baracchinetto piccolo e c'è un altro volante piccolo, però credo di sentirti perfettamente. Prova un po'. Ah, pensavo mi stessi ascoltando con un'altra radio, va bene. Bene, questa è quanto. Allora, io così ti ascolto benissimo, probabilmente col 3009 con quelli che hanno l'altoparlante più grande ti ascolterei ancora meglio, però non trovo nessun difetto, la radio è buona, non sento saturazione, non sento strappare, non sento effetto camera eccessivo, è buona, ottima direi. Vabbè, lasciamo così, stavo facendo un po' di provette e niente, abbiamo raggiunto questo risultato. Sì, il segnale fai vedere. Sì, vabbè, il segnale sto usando 15 watt, niente di importante. Tendente al 9-10, presto smitter è ambiguo, è secco, è tarato secco, capito, dalla fabbrica. Va bene, ciao a tutti. Va bene, grazie Marco, grazie. Ciao, ciao Marco, dai, io sto andando che questo qui sta brugnando, vuole scendere giù, da poverino, che ne aveva anche bisogno, là. Andiamo adesso. È venuto a chiamarmi, ma te l'immagini. Con la zampa mi chiama. Vai, tranquillo già, che tanto io sono qua nel corrico, dai, mi guardo un pochino le due cose al PC e poi già sono in ascolto. Ok, ciao, divertita, buona passeggiata. Ciao, non venire a Segana, ma devo farlo, dai. Ciao. Anche io, vabbè, lui già è più libero qua in campagna, che già da stamattina l'ho notato che stavo mangiando erba, tra una cosa e l'altra, gli ho dato una siringa di acqua ossigenata per farlo vegetare, perché sai, qua in campagna c'è sempre qualcuno che magari non può vedere il cane e quindi butta qualcosa, ma ho visto che già sta bene, solo che ce l'avevo dentro la stanza prima di stare alla radio, ha iniziato a arieggiare e ci ho buttato fuori perché è troppo puzzolente. Sì, ho capito. E vabbè, anche lui quando le molla. Vabbè, già non ti trattengo, dai, già sono qua in corrente. Ciao, dopo. Ciao.